Mango Tart legge Manacold di Sen Lin Yu. Capitolo 10. Sto cercando di ricordarti e di lasciarti andare allo stesso tempo. Naira Wahid. Harry Potter era seduto su un tetto a fumare sigarette e fissare l'orizzonte. Hermione si inerpicò su per una finestra per raggiungerlo. «Cosa c'è successo, Hermione?» chiese lui quando si avvicinò. «La guerra», disse lei a bassa voce, allungando la mano e girandogli il viso verso di lei. Aveva un taglio sulla testa. La pelle pallida era debolmente rossa per il sangue che aveva lavato via. Era triste, stanco e arrabbiato. «Chi è cambiato? Tu o io?» chiese lui mentre lei gli passava le dita tra i capelli e li spingeva da parte per poter chiudere la ferita. «Io», rispose lei, evitando il suo sguardo. «Perché? Pensi che non sarò in grado di farlo?» disse lui. «Stai cercando di venire a patti con il fatto che fallirò?» Hermione lanciò un incantesimo diagnostico. Aveva due costole fratturate e qualche livido sull'addome. Lo spinse indietro per farlo sdraiare prima di iniziare a curarlo. «Penso che tu possa farlo, ma la profezia è un lancio della moneta. Dopo la morte di Silente...» esitò leggermente. «La morte è solo una maledizione che ci separa tutti», disse lui dopo un momento. «Non posso starmene a guardare aspettando che si verifichino le probabilità. 50-50. Presumere di conoscere il risultato. Non quando ci sono così tante persone che dipendono da noi. Quello che hai, il modo in cui ami le persone, è puro, è potente, ma quante volte hai ucciso Tom? Da piccolo, a causa di tua madre, al primo e secondo anno, ma lui è ancora qui, ti sta ancora combattendo. Non voglio dare per scontato che qualcosa sia sufficiente. Non pensi che il bene possa vincere e basta?» disse Harry. Il rimprovero nella sua voce era pesante. Evidente. «Tutti quelli che vincono dicono di essere stati buoni, ma sono loro a scrivere la storia. Non ho mai visto nulla che indichi che sia stata effettivamente la superiorità morale a fare la differenza», rispose lei mentre mormorava qualche incantesimo per riparare le fratture. «Stai parlando di storia babbana, però. La magia è diversa, il mondo magico è diverso», disse Harry, facendo per prenderle la mano che stringeva la bacchetta, proprio mentre lei la spostava per guarire la costola successiva. Chiuse le dita a pugno e le lasciò cadere. Hermione scosse minuziosamente la testa e l'espressione di Harry si fece amara. Guardò il cielo, lanciò un incantesimo sulla sua mano e poi cominciò a spalmargli un unguento per i lividi sull'addome. «Una volta eri diversa», disse Harry. «Una volta eri più giusta di me nelle cose. Cos'è successo al crepa? A quella ragazza che non avrebbe mai detto che la magia nera ne valeva la pena. Che cos'è successo?» «Quella ragazza è morta in infermeria, cercando di salvare Colin Creevy. C'ero anch'io quando è morto Colin, Hermione, e non sono cambiato. Sono sempre stata disposta a fare qualsiasi cosa, Harry. Tutte le nostre avventure a scuola. Una volta che ero dentro... ero dentro, ma forse non hai mai notato fino a che punto ero disposta a spingermi per te.» Quando si svegliò, si ricordò del sogno. Se lo ripeté nella mente, ancora e ancora. Era un ricordo, il che la spaventava un po', ma non sembrava esserci nulla in esso che apparisse particolarmente conseguenziale. Cercò di ricordarsi l'anno in cui era successo. Harry stava fumando, un'abitudine che aveva preso 3 anni dopo la guerra. Non riconobbe il tetto, ma questo non significava nulla. Era stata in dozzine di rifugi diversi. Aveva un ricordo di Harry, anche uno non particolarmente felice. Le sembrava un regalo inaspettato. Le mancava così tanto che a volte era difficile respirare. Si sdraiò e lo ripeté più e più volte nella mente, prendendo nota di ogni dettaglio. La luce nei suoi occhi, il modo nervoso in cui prendeva un tiro dalla sigaretta ed espirava bruscamente, la stanchezza sul suo viso, i capelli disordinati. Avrebbe voluto averlo abbracciato, o avergli preso la mano, o averlo guardato negli occhi e avergli detto quanto fosse importante per lei. Gli avrebbe detto quanto aveva bisogno di lui, che era il suo migliore amico, che lo avrebbe seguito fino in capo al mondo, che non si sarebbe mai e poi mai ripresa se lo avesse perso. Desiderava poter tornare indietro nel tempo e trovare un modo per sistemare ciò che era andato storto, qualunque cosa fosse. Poter tornare indietro e dire a Harry di non andare a Hogwarts il giorno della battaglia finale. Avvisare l'ordine di ciò che sarebbe successo se avessero perso. La loro discussione le era familiare. Lei avrebbe voluto che l'ordine usasse, beh, non necessariamente le arti oscure, ma una magia più ambigua. Man mano che la guerra continuava era diventata più insistente su quel punto e quello aveva messo a dura prova i suoi rapporti con più persone, non solo con Harry. Cercò di non soffermarsi sulla questione del se avessero potuto vincere la guerra se la resistenza fosse stata disposta a usare la magia nera. La guerra era finita e persa. Si premette le mani sugli occhi e cercò di allontanare la domanda. Qualunque fosse la risposta, sarebbe stata tanto dolorosa da raggiungere quanto futile. Oh, Harry! Gli aveva detto che gli voleva bene il giorno della sua morte. Gli aveva almeno parlato. Non riusciva a ricordarselo. Si raggomitolò e si strinse le braccia intorno. Mi mandò un abbraccio. Quando era in cella, si era chiesta se fosse possibile morire per la devastante solitudine che sentiva. Si era sentita come se le si fosse spezzato il cuore. E si sentiva ancora così. Dopo qualche minuto si costrinse ad alzarsi. Stare a letto con il muso lungo non le sarebbe stato utile. Si fermò alla finestra. Aveva nevicato. Tutto il mondo fuori era coperto. Il sollievo visivo da tutto quel grigiore era quasi rincuorante. Insieme alla colazione quella mattina arrivò una fiala di qualcosa. Non riconobbe la pozione. La fissò e la annusò. Ma non era sicura di cosa fosse. La mise da parte. Non le era stato ordinato di prenderla e, finché non le fosse stato ordinato, non aveva intenzione di bere niente che non conoscesse. Si diresse verso le scale e rimase in piedi, fissandole. Era giunto il momento. Stava per scendere le scale da sola. Il fatto che non l'avesse ancora fatto era patetico. Era solo una scala che portava a una sala. E che aveva già percorso decine di volte con Malfoy. Le spalle le tremarono impercettibilmente, ma lei le raddrizzò. Si sentiva come una bambina spaventata. Lo odiava. Strinse le labbra e fece un respiro profondo. Poi premette la mano contro il muro e lentamente fece un passo. Stava per scappare, si disse. Sarebbe scappata da Malfoy Manor prima di rimanere incinta. E poi un giorno sarebbe tornata e avrebbe ucciso Malfoy. Stava per tornare libera. Libera, in un posto con il sole, la magia e persone che non le avrebbero fatto del male. Si concentrò su quel pensiero fino a quando non ci furono più gradini da scendere. Si guardò intorno. La sua mano era ancora premuta contro il muro. Poteva sentire la tenue consistenza della carta da parati. Toccare le pareti sembrava aiutarla a mantenere il battito cardiaco più o meno regolare. Entrò in una sala da tè, in un guardaroba e in un salotto. Li esplorò tutti accuratamente. Il ritratto la seguì per tutto il tempo. Niente, niente, niente. Persino le corde delle tende erano incantate per rimanere. Aprì credenze, armadi e ripostigli. Non c'era una sola cosa utile al loro interno, non un'arma che potesse usare, non per la fuga. Chiuse un cassetto con uno scatto, frustrata. Se avesse voluto trovare qualcosa di utile, avrebbe dovuto esplorare anche le parti abitate del Manor. Era facile per Malfoy assicurarsi che un'ala vuota non avesse nulla che Hermione potesse utilizzare. Sarebbe stato più difficile mantenere tale cura in altre parti della casa. Astoria aveva dato a Hermione l'impressione di essere un po' volubile. Dato quanto era devota a ignorare la sua esistenza, probabilmente non si sarebbe preoccupata di impiegare la stessa cautela di Malfoy. Tornò lentamente nella sua stanza e fissò il paesaggio incontaminato sotto di lei. si sentiva prosciugata dalla sua escursione al piano di sotto, come se avesse corso una maratona. Le aveva richiesto un grosso sforzo. Appoggiò la guancia contro il vetro e si sentì inondata di disperazione. Anche se fosse riuscita a vincere la sua agorafobia, era malapena un inizio. Non importava quali bugie sussurrasse a se stessa. La verità era che non aveva la minima idea su come fare qualcosa di più. Guardò le manette intorno ai suoi polsi. Aveva considerato e sperimentato le loro abilità negli ultimi giorni, da quando Malfoy era riuscito ad annullare la sua agorafobia. Aveva iniziato ad analizzare più attentamente il funzionamento delle compulsioni. Era perplessa su come potessero essere così potenti. Aveva studiato vari artefatti oscuri durante la guerra, ma le manette erano diverse da qualsiasi cosa avesse mai incontrato. Aveva iniziato i suoi esperimenti cercando di disobbedire alla costrizione del silenzio, tentando di urlare. Il concetto era meno restrittivo dell'obbedienza. Le era permesso fare rumore e parlare quando le si parlava. Sembrava il più facile da superare. Aveva pensato che, se avesse lottato abbastanza, sarebbe riuscita a farsi strada con la sola forza di volontà, nello stesso modo in cui gli individui dalla mentalità forte potevano, alla fine, liberarsi dell'imperio. Era abbastanza sicura di essere qualificata come un individuo dalla mentalità piuttosto forte, quando aveva cercato di aprire la bocca per urlare. Si era semplicemente fermata. Non importava quanto tentasse di far uscire il suono. Ci aveva provato fino a quando le manette non avevano cominciato a diventare calde. Non poteva batterle. Alla fine era crollata sul pavimento, prosciugata al punto da lottare per rimanere cosciente. Mentre giaceva lì, guardando la stanza galleggiare davanti ai suoi occhi, aveva cominciato a rendersi conto della ragione per cui le manette erano così potenti. Stavano usando la sua magia. I maghi non avevano più capacità di arginare la magia dentro di loro di quanto potessero spegnere le loro ghiandole surrenali. Qualunque sforzo lei facesse per sopraffare le manette dovevano in egual misura reprimere lei. Non riuscì nemmeno a urlare o infuriarsi per la frustrazione quando se ne rese conto. Aveva così tanta rabbia dentro che le sembrava di poter prendere fuoco. Voleva rompere qualcosa. Voleva usare la magia e far esplodere qualcosa. Voleva fare qualcosa che facesse male. Voleva prendere a pugni uno specchio come si faceva nei film. Vedere il vetro frantumarsi e rompersi fino a sembrare uno specchio di cosa sentiva lei. Voleva che le sue nocche si spaccassero e sanguinassero. Voleva sentire il dolore nelle sue ossa metacarpali, nei palmi, nei polsi. Voleva disperatamente sentire qualcosa di diverso dall'agonia emotiva in cui sentiva di annegare. Ma non poteva. Cercò di aggirare le manette in vari modi. La costrizione andava oltre il semplice non gridare o parlare a meno che non le si parlasse. Non poteva fare rumore, perché le era stato ordinato di stare in silenzio. Non poteva sbattere una porta o calpestare qualcosa. Qualsiasi metodo per fare rumore. Quando cercava di farlo, non riusciva. Fu allora che cominciò a capire che anche lei riusciva a controllare le compulsioni. Le era stato ordinato di fare silenzio. Era la sua consapevolezza di essere inquieta che attivava le manette. Tutto ciò che considerava rumoroso, resistente, disobbediente, non poteva farlo. Ecco perché la guaritrice si era preoccupata di assicurare la stabilità mentale di tutte le ragazze. Se avessero perso la testa, le compulsioni non avrebbero potuto controllarle. Ecco perché la ragazza che urlava era stata in grado di attaccare qualcuno. Le manette erano illimitate nelle loro restrizioni, come la creatività di Hermione. Cercò di concentrarsi su qualcos'altro mentre cercava di pestare i piedi o sbattere una porta, eseguire calcoli di aritmansia, recitare mentalmente i procedimenti per il distillato della pace. Le manette erano ancora attive. Aveva esaurito le idee su come cercare di aggirarle. Si allontanò dal paesaggio innevato e cominciò a fare esercizio nella sua stanza. Si sentiva a disagio sotto l'attenzione del ritratto, ma dopo quasi un mese non le importava più. Era così stanca di pensare, di sperarsi. Non che riuscisse a impedirsi di pensare anche mentre infilava i piedi sotto l'armadio e cominciava a fare addominali fino a sentirsi i muscoli bruciare come se le avessero iniettato dell'acido. Almeno era un modo per dirigere la sua rabbia. Non sarebbe stata in grado di uccidere Malfoy. Le manette glielo rendevano impossibile. E non poteva fuggire da sola. La Umbridge non si era nemmeno preoccupata di imporle una coercizione contro la fuga. Questo era quanto lei e la guaritrice Stroud erano certe che le ragazze non potessero togliersi le manette. Quel dettaglio era l'unica scappatoia che poteva sfruttare al momento. Poteva fare delle cose con l'intenzione di scappare. Ricordò attentamente tutto ciò che sapeva sulle manette. Anna non aveva fatto menzione del fatto che qualcuno se le fosse mai tolte, nonostante qualsiasi lassismo o cameratismo sviluppatosi con le guardie pettegole. Le manette avevano una traccia al loro interno, ma piuttosto che farsele togliere da qualcuno, Angelina aveva tentato di rubare quella traccia. Un bel po' di persone erano riuscite a fuggire da Hogwarts, tutte quelle che Malfoy aveva ucciso. Nessuno era mai riuscito a scappare del tutto, perché nessuno di loro era riuscito a togliersi le manette. Cosa aveva detto Anna? A meno che Hermione non fosse riuscita a tagliarsi le mani, non sarebbe mai scappata. Come si toglievano le manette? Due mangiamorte erano arrivati a Hogwarts il giorno in cui avevano messo le manette nuove, Yaxley e Rowle. Erano stati chiamati quando le guardie avevano iniziato a schiantare tutte le donne e se ne erano andati quando lei era stata schiantata. Solo i mangiamorte che portano il marchio nero potevano rimuoverle. Aveva due opzioni. Doveva trovare un modo per far sì che Malfoy la uccidesse o la aiutasse a fuggire. Non c'erano opzioni che lo escludessero. Non importava se il Manor avesse un intero set di attrezzature da campeggio, un cesto di passaporte e un'arma che poteva in qualche modo toccare. Sarebbe stato tutto inutile per lei se non fosse riuscita a togliersi le manette. Ringhiò silenziosamente a se stessa per la frustrazione. Rotolò e cominciò a fare flessioni finché non riuscì più a sollevarsi da terra. Rotolò di nuovo sulla schiena e fissò il soffitto. Draco Malfoy, dov'è la crepa nella tua armatura perfetta? Come al momento giusto, la porta si aprì e Malfoy entrò. Lei girò la testa per guardarlo, ancora troppo stanca per cercare di trascinarsi su dal pavimento. Lui la fissò. Qualcosa tremolò nei suoi occhi dopo un momento. «Una cosa babbana, presumo», disse. Hermione sgranò gli occhi e si costrinse ad alzarsi. Sentiva il corpo fatto di gelatina. Lui si guardò intorno nella stanza. Posò gli occhi sulla fiala di pozione che Hermione aveva rifiutato di prendere prima. L'appellò dall'altra parte della stanza e la prese abilmente nella mano destra. «Mi rendo conto che, essendo una Grifondoro, ci sono certe cose ovvie che in qualche modo non riuscirai mai a comprendere. Suppongo che non dovrei essere sorpreso che in qualche modo ti sia sfuggita l'istruzione implicita di inghiottire questa», disse, la bocca arricciata in un lieve disappunto. Hermione incrociò le braccia ostinatamente. Anche se poteva essere strategicamente consigliabile sembrare docile e obbediente, come ex creatrice di pozioni era troppo paranoica per accettare una cosa del genere. «Cosa c'è dentro?» disse lei. L'espressione di Malfoy divenne gongolante. «Te lo dirò se ne berrai ogni goccia come una brava ragazza», le disse, facendo un sorrisetto malizioso. Hermione non si mosse. Lui sorrise debolmente mentre la fissava. «Vieni qui, sangue sporco», comandò dopo un momento. Lo fissò mentre i suoi piedi riluttanti la portavano attraverso la stanza, fino a lui. Non si fermarono finché non fu a pochi centimetri, così vicina che le sfiorò le vesti. Si fissò le scarpe con aria di sfida. «Guardami, sangue sporco!» Sentì il mento sollevarsi fino a fissarlo. Lui stava ancora sorridendo. «Sicuramente sei consapevole che non ho intenzione di ucciderti», disse. Gli occhi erano accesi di crudele divertimento. «Dopotutto, se lo facessi, immagino che ti sentiresti obbligata a venire di corsa a prendermi». Fece una smorfia. «Sì, lo sapeva». Ma il veleno era solo una delle innumerevoli cose con cui poteva drogarla. Il cuore le batteva all'impazzata nel petto e le faceva ruggire le orecchie. «Apri la bocca», comandò, stappando la fiala e poi procedendo a rovesciargliela nella bocca aperta. «E ingoiala tutta!» Hermione chiuse la bocca e deglutì. La pozione aveva un sapore amaro. Le diede un leggero formicolio sulla lingua e in gola mentre scivolava giù fino allo stomaco. Lo sentì sostare lì per un momento prima che si disperdesse nel suo sistema. Sentì come se qualcuno le avesse rotto un uovo nella mente. Qualcosa di freddo trasudò sulla sua coscienza fino a quando se ne sentì completamente avvolta, come se qualcuno le avesse strappato il cervello e l'avesse messo in una vasca di acqua ghiacciata. Il suo corpo era lì, ma la sua mente no. Era come sperimentare se stessa in terza persona. Il battito cardiaco scese ad un ritmo costante. Avrebbe dovuto essere nel panico, ma era come se la sua coscienza fosse stata separata dal suo sistema endocrino. Nessuna ondata di adrenalina o noradrenalina. Nessuna paura. Era solo un'osservazione. Avrebbe dovuto essere nel panico. Non lo era. Alzò lo sguardo verso Malfoy. Era consapevole di odiarlo. Era un'informazione che sembrava della massima importanza, eppure non riusciva a sentirla. L'odio era un costrutto più che un'emozione. Lui la fissò intensamente. «Come ti senti, sangue sporco?» chiese dopo un momento. I suoi occhi acuti stavano cogliendo ogni dettaglio. Le studiavano il viso, gli occhi e la postura. Non le tremavano più le mani. Se ne rese conto quando lui abbassò lo sguardo su di esse, come se la stesse catalogando. Sentì la sua pelle prudere per la consapevolezza e un lieve brivido le corse lungo la spina dorsale, ma non riuscì a sentire una corrispondente ondata di paura. Solo consapevolezza. «Fredda», rispose lei. «Il mio cervello è freddo. Cosa mi hai fatto?» «Lo scopo è quello di farti abituare al Menor», disse lui, facendo un passo indietro mentre continuava a valutarla attentamente, «in modo che io non sia obbligato a controllarti di persona». Hermione non disse nulla. Il cervello che analizzava tutto. La poca familiarità che aveva nel Menor la turbava. L'ignoto la faceva andare nel panico e la pozione lo bloccava. Ora poteva andare dove voleva. Bloccava tutte le sue emozioni. Non era triste o arrabbiata. Non si vergognava. Il dolore era sparito. La rabbia anche. Lei era... niente. Esisteva semplicemente. Nel freddo nulla. Alzò lo sguardo verso Malfoy. «È così che ci si sente ad essere te».